Ma in realtà la cosa fondamentale che tu hai colto benissimo è la connessione stretta tra progetto sociale, umanitario e di supporto al popolo palestinese e la produzione economica. Cioè la cosa che su cui Critical va in prima, la Terra Trema lavora in modo esemplare come nessun altro fa, è la connessione tra dimensione etica, dimensione sociale del produrre e l'attività economica, come non vista come una cosa aberrante, ma su cui un interagire con l'ambiente che l'uomo deve per forza fare per campare. Ecco, nel progetto Cremisano, delle grandi attrattive che ha, è il fatto proprio di avere, è impossibile distinguere l'attività economica produttiva dall'attività di relazione. Cioè, qui stasera abbiamo parlato di conflitto, cose se volete per chi non le vive in prima persona abbastanza teoriche, per chi le vive in prima persona come produzione, semplicemente volendo produrre vino, non avendo nessun tipo di ambizione sociale, si confronta con delle dinamiche politiche e sociali per forza. Per cui quando io devo mandare un cartone a Tel Aviv, per andare in concreto, per far capire quali sono i problemi reali su cui ci misuriamo, quando io devo mandare un cartone a Tel Aviv, devo chiamare i militari israeliani, la forza occupante, fare dei permessi specifici perché questo cartone possa attraversare il checkpoint e andare di là. Il checkpoint è una barriera per le persone innanzitutto, ma per le merci che devono entrare. Naturalmente Israele è ben felice di vendere ai palestinesi merci prodotte in Israele, così da aumentare molto di più la sua forza economica. Il discorso potrebbe essere ribaltato vendendo in Israele vino cremisano, cosa che già avviene. Avviene dove? Avviene presso i palestinesi israeliani, gli arabi cristiani di Israele. Se poi si creasse un movimento di sostegno da parte dei pellegrini che arrivano a milioni in Terra Santa, se non da parte dei luoghi dell'autogestione, come diceva giustamente prima Marco, questo assolutamente sarebbe... Io me lo auguro, me lo auguro.